Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera ci prendiamo una pausa, nonostante l'ora parliamo di Coffee Break, 30 racconti per il lusso di una pausa. L'autore è Mario Unia. Buonasera Unia. Buonasera carissimo, buonasera. Mario Unia è un politologo, consulente, accademico, ha una lunga esperienza, ha fondato Prospecta, una società di studi, ricerche produttive, è un grande osservatore del mondo aziendale che è scritto nel libro Guarda con affettuosa complicità e si considera un intellettuale acritico, non più riciclabile, non è in sintonia con chi pratica sport, detesta chi gli rompe l'ozio, speriamo di non avergli rotto l'ozio questa sera e comunque parliamo di questo libro che raccoglie una serie di racconti, non è un manuale di management, non è un'analisi economica, ma sono una serie di racconti che però hanno tanti spunti di riflessione. Com'è nata l'idea di questo libro, Mario Unia? Ma dunque, questo libro è la raccolta di una trentina di racconti che io ho pubblicato su una rivista fondata e diretta dal nostro comune conoscente Domenico De Masi, sociologo che anche tu conoscerai bene, certo. E il quale peraltro aveva fondato Next, che era una rivista quasi catacombale, devo dire, no? Una rivista di sociologi, politologi, economisti, cioè di persone tutte serie. Ma nel mezzo di questa rivista, proprio al centro, è una rivista di 150 pagine, c'era uno spazio dedicato a me. E io fino allora non volli pubblicare delle cose pseudoserie, ma di pubblicare qualcosa, e lo chiamai, questa rubrica la chiamai Coffee Break, un intervento, un momento di riflessione, ecco, tutto lì. Allora questa è una raccolta tardiva di questi racconti che sono comparsi nell'arco di parecchi anni e che, come ricordavi, toccano il mondo aziendale da vari punti di vista, insomma. Ecco, infatti, Domenico De Masi, che ha scritto l'introduzione, cita un'introduzione largamente così simpatica, forse anche eccessiva nella valutazione, ma sai, Mimmo è un napoletano caldo, quindi dai napoletani caldi dobbiamo aspettarci sempre una sinfonia, ecco, non una musichetta. Ecco, ma riporta appunto, pur nell'enfasi elogiativa di questo libro, di cui si sente un po' complice, riporta tre citazioni che sono molto interessanti. La prima è: la semplicità è una complessità risolta. La seconda, di Oscar Wilde, è: la vita è ciò che accade mentre noi pensiamo ad altro. E la terza citazione: tengono il ritratto dei cinque figli sul tavolo per anni e capprendono poi in fin di vita che soltanto una delle tre creature era sua. Quindi, ecco, partiamo magari dalla prima: la semplicità è una complessità risolta. Questo c'è molto di logica aziendale. Sì, certo. Beh, dunque lì ci sono dei racconti dove appunto il focus mio è su due personaggi che sono il consulente e il manager, che sono due persone sempre molto complicate perché devono sciogliere delle situazioni complesse o diciamo rendere oscure delle situazioni semplici, e quindi in questo dilemma finiscono molto spesso di finire male. C'è un esempio di un imprenditore che insomma non sa più che cosa fare, di un manager che non vede il suo futuro, di un consulente che confonde le carte, come poi il mondo delle aziende che in fondo in cui tutti noi viviamo, insomma oggi non è facile operare in un'azienda, e quindi qui c'è una lettura che è forse un po' beffarda, però in fondo è il mondo che io ho frequentato e continuo ancora a frequentare da sempre, quindi è un mondo che amo, insomma, tutta la mia comprensione, anche quella di De Masi, anche se De Masi è molto spesso molto, molto duro nei riguardi di questo mondo. Ecco, c'è infatti molto politicamente scorretto in questo libro, c'è anche a un certo punto l'elogio della menzogna. Sì, anche quello. No, ecco, invece questo mondo l'ho sempre preso, faccio un esempio, pigliamo le donne come sono state trattate in questi racconti, e le donne c'è la donna manager, certamente c'è la donna manager che è un personaggio complesso, poi però c'è anche la donna benefattrice, quella che vuole cercare delle persone che appunto verso le quali esercitare il dono della beneficenza, oppure c'è la donna che trama nell'ufficio, ma trama nel talamo anche, no? Come sanno tramare. Poi addirittura si parla di una donna clonata, di una manager clonata, cioè vuol dire, sono le varie sfaccettature di una società complessa come la nostra, sempre letta però in una chiave, di una chiave, io lo cito anche, piccolo particolare, io ho imparato a scrivere bene al liceo, all'università, eccetera, benissimo, però mi portavo dentro sempre la voglia di scrivere in un modo diverso, non solo Kant, non solo Hobbes, non solo Gibbons, ma anche Rabelais, ecco, anche Rabelais, anche Gargantua e Pantagruel. Ecco, quindi qui c'è un tentativo di allontanarmi dagli stili aulici di che hanno formato te, hanno formato me, hanno formato tutti quelli che sanno, che conoscono la consecutio temporum e la sanno applicare, ma anche invece il grottesco. Ecco, qui c'è una connotazione di grottesco, il mondo è anche grottesco e dobbiamo prenderlo per quello che è, insomma, anche per il suo grottesco. Certo, grottesco, ma tanti episodi, molti di fantasia, ma molti chiaramente legati anche ad esperienze concrete, anche se ovviamente ogni riferimento a persone o fatti è puramente casuale. Ecco, in questo libro, che rappresenta appunto 30 momenti per prendere un po' un respiro, magari per guardare e sorridere al mondo che ci circonda, dobbiamo prenderlo veramente come un coffee break, Mario Unia. Una reazione alla depressione e anche il consiglio della pausa. Quando abbiamo presentato il libro, tutta la discussione, poi c'era Gianfilippo Cuneo, che tu conosci perfettamente, la Miriam De Cesco, che è un personaggio importante nella storia dell'editoria, c'era Pino Varchetta, che è un bravissimo psicologo. Ecco, tutta la discussione poi è avvenuta sul concetto appunto del sottotitolo, cioè il lusso di una pausa. Prendersi una pausa. Ecco, io credo che prendersi una pausa sia in questo momento, a dispetto della competizione, a dispetto della corsa, a dispetto del confronto, eccetera, eccetera, una necessità. Ecco, prendiamoci una pausa, facciamo il coffee break. Anche il momento è giusto, siamo in estate, quindi anche il momento è giusto per prendersi una pausa, anche magari un po' più lunga. Grazie mille a Mario Unia, autore del libro Coffee Break, 30 racconti per il lusso di una pausa, edito da Guerino Associati, 206 pagine per 18,50 euro. Dopo la pausa per il coffee break con Mario Unia, riprendiamo a parlare di economia in senso stretto, anzi di educazione finanziaria, e lo facciamo con Giuseppe Ghisolfi. Buonasera Giuseppe Ghisolfi. Buonasera. Giuseppe Ghisolfi è presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, ma ha trovato anche il tempo per scrivere un manuale di educazione finanziaria per i ragazzi delle scuole medie, che è un vocabolario in pratica in cui da abi ad usura si mettono in luce tutti i termini di uso corrente, ma con una finalità molto divulgativa. Come è nata questa idea, presidente Ghisolfi? Allora, io da 10 anni vado nelle scuole elementari, medie e superiori per fare educazione finanziaria, un progetto che la banca ha fatto 10 anni fa e che ogni anno abbiamo ampliato. Quest'anno, viste le domande che mi fanno i ragazzi, mi è venuto in mente di fare questo manuale per lasciare qualcosa di concreto. Abbiamo preso i 100 termini più usati in economia. Da prima li ho scritti come scriverei normalmente, poi li ho dati a dei ragazzi di terza media, hanno tenuto le bozze per un mese, mi hanno fatto tutte le correzioni dove non capivano e ne hanno fatte moltissime, e di lì è venuto fuori questo manuale che ritengo sia comprensibile ai ragazzi, ma utile anche agli adulti. Ecco, è un manuale tra l'altro illustrato anche da simpatici disegni dei ragazzi sui vari termini dell'economia, utile anche agli adulti. Allora diciamo subito, se qualche ascoltatore volesse richiederlo, può richiederlo alla Cassa di Risparmio di Fossano, ed è un manuale, non è in vendita delle librerie, ma è distribuito gratuitamente dalla, certo, Cassa di Risparmio. Questo... Allora, se arrivano le mail, io le do già anche l'indirizzo della mail, giuseppe.ghisolfi@crfossano.it, noi a tutti quelli che mandano una mail oppure che scrivono una lettera, una letterina, quello che voglio, o anche ci telefonano, Cassa di Risparmio di Fossano, su tutti i siti trovano il telefono, noi inviamo ovviamente gratuitamente, perché il manuale non è in vendita, viene distribuito gratis, gli inviamo il manuale in qualunque parte egli si trovi, non c'è problema, ce lo chiedono, noi lo mandiamo molto molto volentieri. Ecco, quindi un'opera di divulgazione, un'opera per fare entrare l'economia nelle scuole, che nasce un po' anche da un'osservazione che forse di economia si parla poco nelle scuole attualmente. Ma si parla poco, poi c'è un livello di impreparazione molto diffuso, e in tempi come questi non conoscere l'economia, io faccio sempre questo esempio ai ragazzi nelle medie ma anche nelle superiori, faccio questo esempio: non conoscere l'economia oggi è come decidere di andare a abitare a Londra senza conoscere una parola d'inglese. Cioè, è lo stesso effetto. Oggi l'economia, i telegiornali aprono, i primi tre servizi sono d'economia. Le pagine di economia dei giornali, quando io ero ragazzo c'era una pagina alla settimana. Oggi metà del quotidiano è dedicato all'economia. Quindi o tu sei in grado di capire i vari termini e quindi leggi e capisci, se no non serve a nulla. Purtroppo il livello di preparazione, di comprensione, soprattutto dell'economia, è molto basso. Non è che questo manuale risolva i problemi, sia ben chiaro, non è che credo che il manuale, però il manuale ti può aiutare a capire i termini. Diceva prima lei delle illustrazioni: noi da 10 anni facciamo un concorso riservato alle scuole medie, i ragazzi preparano o un testo o un disegno avente per oggetto il risparmio. Abbiamo già raccolto tutt'oggi 1000 disegni, di questi 1000 ne abbiamo selezionati una cinquantina, quelli che servivano, e sono inseriti nel libro. Lo dico perché questa è una parte che non ho fatto io, questi disegni sono bellissimi, cioè fatti dai ragazzi che dimostrano non solo fantasia ma anche tanta genialità. Ecco, quindi dimostrano anche l'interesse dei ragazzi verso questo problema, questo tema di fondo che comincia ad essere avvertito anche nelle scuole medie. Ma un grandissimo interesse. Lei pensi, le faccio questo esempio: a Fossano ci sono 250 ragazzi che fanno le medie, continuiamo a parlare delle medie, che poi i ragazzi che mi danno più soddisfazione sono quelli elementari, ma parliamo delle medie. 250, loro possono scegliere se fare o il testo o il disegno per aderire al concorso. Ebbene, lei mi creda, tutti 250 fanno sia il disegno sia il testo. Ecco, questa è in fondo la dimostrazione anche di un interesse che va sollecitato ed è opportuno sollecitare, e bisogna fare i complimenti a chi ha la passione appunto per esercitare. Devo ringraziare anche, se no farei un errore madornale, devo ringraziare gli insegnanti e la preside, la professoressa Longo, perché ovviamente se non ci fosse, diciamo, l'input, certo, da parte degli insegnanti e soprattutto della preside, beh, forse i ragazzi risponderebbero diversamente. Però non è che sono obbligati. Ai ragazzi viene detto: tu vuoi partecipare a questo concorso, partecipi; non vuoi partecipare, non partecipi. Però ovviamente gli viene detto, si vede che gli viene detto in un modo convincente. Grazie mille, grazie a Beppe Ghisolfi, presidente della Casa di Risparmio di Fossano, autore del libro Manuale di Educazione Finanziaria, che può essere richiesto alla stessa Cassa di Risparmio di Fossano. Grazie anche a quanti ci hanno seguito. Grazie a Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.